Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine. E andremo avanti fino alle ore 21:30, ma andiamo subito con quella che è la sigla di questa trasmissione. Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardins Magnetics, programma condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli di Trieste, e ne approfitto per salutare anche le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci ascolteranno domani da Radiazione. E allora entriamo in bomba, come si suol dire, magari, ma così è una roba simbolica. Nel cuore della trasmissione, dunque, la scorsa settimana è saltata per motivi di forza maggiore, noi non c'entriamo, robe tecniche della radio, e precedentemente avevamo parlato abbastanza diffusamente di un'iniziativa che si è svolta a Roma il 13 di ottobre, intitolata "Il capitalismo nuoce gravemente alla salute". Si trattava di un presidio controinformativo e di protesta, contro praticamente un incontro promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sul rapporto sulla salute mentale mondiale. E specificamente questo presidio, appunto, ha voluto così mettere il dito sulla piaga della vocazione dell'OMS, una vocazione che tende a fare gli interessi e a portare avanti le tensioni della società capitalistica, oltre che delle multinazionali farmaceutiche, e che porta avanti un modello di società della prestazione che genera depressione e alienazione, quindi una medicina, una concezione di salute, una concezione di medicina produttivista, efficientista, insomma, che praticamente vuole le persone in salute, cioè in forza fisica e mentale, affinché la società sì, di macinazione del capitalismo continua ad andare avanti imperterrita. E su questo argomento, boh, avevamo letto il volantino, insomma, poi ci sono ulteriori contributi che poi magari, se c'è tempo, vedremo, comunque ne parleremo. E tra un po' sentiremo una compagna di Roma che ci farà un report, appunto, dell'iniziativa del 13 ottobre. Allora, intanto un po' di musica e poi sentiamo la compagna. Radioactivity is released, people are very afraid. That's why the Japanese have increased their evacuation zones steadily through the day, and it's largely due to fear. The radioactivity is a terrible fear-relating factor, but I believe that it's not likely that they're going to see health hazard-creating levels of radioactivity, not with what we know right now. intanto in sottofondo stiamo ascoltando questa band belga, loro sono i Link, questo è il loro album datato 2011 che si intitola Duster, band che comunque si è sciolta circa 4 anni fa e che si era formata a fine anni 90. Comunque rimaniamo all'ascolto di questi Link. Ecco, quindi probabilmente abbiamo già in linea la compagna di Roma. Sì, ci sono. Sì, ciao. Ciao. Ciao, benvenuta. Allora, grazie. Ti chiediamo così, abbiamo già presentato in precedenti puntate in maniera abbastanza particolareggiata l'iniziativa del 13 ottobre. Sì. Ti chiediamo un po' così, un resoconto, diciamo, di quella giornata importante e poi ne discutiamo così a ruota libera. Ok, benissimo. Vado? Sì, vai tranquillo. Ok, allora, quindi immagino sia già stato detto il perché del presidio fatto in Piazza del Risorgimento a Roma, un posto attraversato soprattutto purtroppo da turisti sì, che vanno anche di corsa, perché siamo proprio all'esterno delle mura vaticane, sì, per cui c'era un via vai incredibile, però eravamo anche, diciamo, relativamente a pochi passi dal Santo Spirito, che è un complesso, è un ospedale ma anche un complesso antico molto bello, dove si teneva la due giorni di incontro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità proprio sulla salute mentale. Certo. E inoltre è un posto molto vicino al centro Bini, che è un centro appunto di privato, sì, di psicologi e psichiatri, e Bini è tristemente famoso per l'elettroshock. E quindi infatti, diciamo, anche questo centro sostiene molto questa pratica terribile. Sì. Quindi diciamo erano un po' così, era abbastanza simbolico come e molto comunicativo. Avevamo anche approntato, fatto alcuni volantini tradotti in lingua inglese e in spagnolo proprio per cercare in qualche modo di riuscire a comunicare anche appunto con i turisti che passavano. Sì. La giornata è iniziata con un pioggione incredibile, quindi è stata un po' inficiata sia dal fatto che era un giovedì mattina, per cui una giornata di lavoro, e sia dalla pioggia, ma nonostante tutto insomma eravamo circa un centinaio. Ed è per noi facciamo parte, allora io faccio parte del collettivo Senza Numero, un collettivo, sì, antipsichiatrico presente su Roma, ma siamo collegati anche a una rete antipsichiatrica diciamo su tutto il territorio italiano, per cui questa giornata era stata pensata con appunto tutti gli altri collettivi. Benissimo. A seguito diciamo di un incontro che era avvenuto a Milano, promosso dalla Brigata Basaglia, che è una brigata nata diciamo durante il periodo, la cordata un po' delle brigate milanesi, e si occupano soprattutto del sostegno psicologico, che si insomma, visto il periodo del Covid che evidentemente ha segnato tantissimi di noi, e a Milano avevano organizzato questa giornata dove c'era un tavolo dedicato proprio al carcere e alla psichiatria, che anche all'interno diciamo degli istituti penitenziari sta prendendo moltissimo piede. Certo. Emettendo vittime. E mietendo tantissime vittime, ovviamente, perché appunto uno di ciò che noi abbiamo voluto assolutamente sottolineare durante il presidio, di cui siamo pienamente convinti, è un po' questo parallelismo che abbiamo fatto tra quella che è stata la gestione politica della diciamo di quella che viene definita un'emergenza sanitaria, che è stata tutta basata dare importanza ai sintomi, no? Intervenire, certo, sui sintomi e assolutamente non sulle cause, mm-hmm, che è esattamente diciamo come la psichiatria si è sempre mossa, no? Cioè addirittura poi causando anche ulteriori sintomi o comunque sintomi che dipendono sempre più dalla cronicizzazione della sofferenza, del disagio, proprio a causa dell'uso degli psicofarmaci, che insomma ci sono moltissimi studi, per quanto difficili da ritrovare, perché ovviamente l'interesse è ben altro, che proprio testimoniano come l'uso degli psicofarmaci crea dipendenza, ma crea anche veramente delle disfunzioni a livello neurolettico, insomma. Certo. Per cui è un po' il cane che si morde la coda, no? Mm-hmm. Continua, per cui magari un momento di crisi rischia di diventare cronico, perché appunto non si va a leggere quali sono le cause, che spesso sono appunto relazionali, sono sociali, sono di difficoltà sociali, di isolamento, no? Di atomizzazione dell'individuo, ma si punta solamente sulla cura dei sintomi. E questo appunto noi questo anche durante il periodo Covid, sempre con la rete antipsichiatrica, avevamo diciamo redatto questo opuscolo che si chiama Strappi, dove abbiamo affrontato quello che stava accadendo proprio a seguito di questa gestione del Covid, per cui era diciamo abbiamo sempre riflettuto sul fatto di come la psichiatria fosse proprio il riferimento, no? Come la psichiatria si muove e come diventa poi il riferimento di altri ambiti. Perché? Certo. Perché andare a capire e ad agire sulle cause significa inevitabilmente, a nostro avviso, che ci deve essere, insomma, in qualche modo una rivoluzione sociale, non so come dire, cioè delle cose devono assolutamente cambiare. Mi inserisco un attimo, certo. Tu parlavi della psichiatria, cioè a me viene in mente anche il discorso della psichiatrizzazione, ad esempio, delle persone che si rivolgono al CERT, cioè che sono costrette, a rivolgersi al CERT, perché non è che ci siano molte scelte, no, in certe situazioni. No, questo è il discorso della medicalizzazione, appunto, di un malessere, per cui magari si vale lo stesso discorso, il fatto di curare, di affrontare il sintomo attraverso droghe legali, diciamo, di tutti i tipi, induce le persone a diventare tossiche, perché magari ci sono persone che magari hanno un momento di sbando, diciamo, che però la loro integrità soggettiva la mantengono, però attraverso questa violenza della medicalizzazione diventano tutti gli effetti tossici, quindi si produce una dipendenza dall'istituzione, che è una cosa veramente direi mortale per... Sì, dall'istituzione, dal metadone, sì, da tutte, esatto, le... No, mi viene in mente che proprio una generazione, ci sono diverse generazioni, segnate. Io ho una certa età, ma comunque pensando anche a generazioni molto più giovani, che sono veramente segnate da questa, sì, io direi annientate anche dal punto di vista della potenzialità politica di rivolta sociale, no? Perché assolutamente sì, beh, insomma, diciamo l'eroina, sì, come anche oggi, esatto, era stata messa, non negli anni 70, certo, alla fine degli, esatto, anni 70, era stata messa nel mercato proprio per fermare tutte quelle spinte, diciamo, se non rivoluzionare, quantomeno progressiste, di lotta, no? Di intervento proprio diretto delle persone per un cambiamento reale, ed è una cosa che sta accadendo sicuramente, sì, anche in questo periodo da un punto di vista di sostanze, sì, certo. Forse in maniera ancora più devastante, perché magari negli anni 80, diciamo, c'era ancora un residuo di resistenza, di politicizzazione, no? Mentre, certo, ora soprattutto le generazioni più giovani, cioè uno si buca due volte, diventa utente CERT per 20 anni, per dire, no? Sì. No, che è una cosa, secondo me, che non viene, cioè una cosa anche magari di cui è difficile parlare, perché è un po' delicata. Però assolutamente, guarda, è una delle parti, delle cose che abbiamo anche affrontato, non so se avete letto l'appello, no? Sì, la questione, sì, appunto, quella proprio di come conviene comunque agli stati reggere anche un po', la legalizzazione o meno, cioè rendere possibile anche l'accesso a alle sostanze psicotrope, no? Perché, certo, comunque, diciamo, sarebbe un approccio completamente diverso, no? Mm-hmm. E invece sia, diciamo, in questo modo lo Stato si garantisce comunque la gestione di chi poi, appunto, diventa assolutamente dipendente, no? E anche nella diffusione di quelle che loro stabiliscono essere, no, le droghe possibili, insomma, che possono essere usate. Una delle questioni, per esempio, del carcere, della psichiatria, esatto, in carcere è proprio quella, nel senso che nel carcere, poi parliamo anche nei CPR, insomma, in, sì, tutti, sì, i luoghi, tutte le istituzioni contentive, sì, esattamente, le istituzioni totali, la profusione di psicofarmaci è altissima, e questa non fa altro che garantire proprio una fidelizzazione, non so come dire, cioè le persone escono lì e sono assolutamente, esatto, legate all'istituzione, legate a, sono dipendenti assolutamente. E per esempio nei nostri percorsi abbiamo incontrato varie persone che, sia uscendo dai CPR o dalle carceri, si sono ritrovate con problemi molto seri relazionali e fisici a causa proprio della dismissione anche improvvisa, no, di questi farmaci, perché è chiaro che non c'è neanche degli psicofarmaci, sì, sì, certo, perché non c'è neanche l'accompagnamento poi una volta, no, e che si interrompe, sì, sì, per, diciamo, ridurre gradualmente, per esattamente, uscire, esattamente, per cui sono effetti molto dannosi e molto gravi, ed è quello che ti dicevo anche rispetto alla cronicizzazione, no? Per cui poi continui a manifestare ripeto, sia fisicamente sia psicologicamente delle crisi molto serie, che poi si rinterverrà di nuovo. E tu dicevi sui CERT esattamente quello che succede una volta, per esempio, che sei dismesso dal trattamento sanitario obbligatorio, certo, per cui sei costretto ad andare ai CIM, e al CIM ti fanno il depot, questa iniezione di psicofarmaci a lento rilascio ogni 21-26 giorni, ed è solamente questo, diciamo, il sostegno che ti danno, no? Garantendoti appunto questo collegamento, questa dipendenza strettissima dall'istituzione. Ora, tornando, se vuoi, sì, all'incontro, giornata, sì, all'incontro dell'OMS, sì, avevamo letto, personalmente non ho letto tutta la relazione perché era proprio infinita di pagine, sì, sì, anche perché trattava proprio di, diciamo, di quello che si potrebbe fare, di che cosa si fa all'interno di tanti degli stati, diciamo, sì, e quindi, però, ecco, mentre da una parte si scrivevano tante belle parole su quelle che sono le reti sociali, no? La non atomizzazione dell'individuo, l'essere, il seguirlo, no? Il dialogo, eccetera, sì, eccetera, poi un punto che era assolutamente a noi, diciamo, che abbiamo sottolineato e che riteniamo che è veramente figlio dei tempi delle società neoliberiste di questo mondo, ormai direi questo impazzito, così usando un termine che non, sì, è proprio antipsichiatrico, però insomma capitemi, sì, era proprio la diciamo il problema che una cattiva, dicono così, una cattiva salute mentale interferisce sulle capacità di lavoro, di studio, di competenze, no? Per cui è un danno, ovviamente, sì, un danno economico, è un danno di attività, no? Per cui questa, e questo, diciamo, è evidente nel momento in cui, se ti considerano ormai un soggetto completamente perso, o ti fanno diventare un soggetto completamente perso, incapace di autonomia, appunto, quindi di autodeterminarsi, incapace di avere una vita propria, di fare delle scelte, perché poi, diciamo, quando si cade nella rete della psichiatria, il problema è proprio questa infantilizzazione dell'individuo, no? Non ti viene più riconosciuta, diciamo, una tua identità, una tua soggettività. E quando ti considerano completamente perso, vanno là con vanno avanti con il sostenerti tramite assegni, no? Che poi ti, appunto, ti legano mani e, sì, piedi, come dicevamo prima, anche quelli all'istituzione, o altrimenti cercano assolutamente in qualche modo di farti campare, di portarti avanti per forza d'inerzia, grazie appunto agli psicofarmaci. Ma la questione è veramente, il nodo, diciamo, è quello della produttività, cioè, certo, esclusione, oppure in qualche modo tu ci devi stare, e ci devi stare come, sì, elemento produttivo. Efficientismo, esattamente. Quindi, al di là da queste parole che cozzano, le parole prima, no, sì, sull'appunto le reti sociali, che cozzano terribilmente in realtà con quella che è, cozzano con quella che è la realtà, no, che ci stiamo vivendo e che è emersa chiaramente a nostro avviso nel periodo del Covid, esattamente, in questi ultimi due anni, cioè il fatto che state tutti chiusi in casa, isolatevi, tecnologie inserite per avere amici e contatti da tutte le parti, quindi c'è assolutamente una atomizzazione dell'individuo, una separazione dell'individuo, un isolamento, no? Per cui ha voglia di parlare di reti sociali quando poi gli stati mettono in atto, insomma, politiche di questo tipo. E quindi, diciamo, ci sembra che fosse che sia necessario far notare questa, far emergere queste contraddizioni per davvero, come si dice, cercare di restare umani, non so come dire, cercare, sì, certo, di opporci a questo, diciamo, a questo ordine che sta ormai sempre più prendendo piede, che appunto separa e ti dà solamente, diciamo, input di competizione, no? efficientismo, cioè va completamente a discapito di quella che è invece il vivere, il saper vivere assieme, il saper accogliere le differenze, il saper accogliere appunto i momenti di crisi che possono anche essere costruttivi, alcuni momenti di crisi. Sì, che sono necessari anche, cioè che sono anche rivelatori della realtà, diciamo. Esattamente. Sì, di una realtà non mistificata, sì. Esattamente, cioè come si fa a star bene, no? In alcune situazioni, cioè voglio dire, almeno per quanto mi riguarda, ma questo è un inciso mio, sì, fai respirazione, sì, va bene, ma cioè, aspettate un attimo, insomma, tutto mi sembra che vada proprio in un'altra direzione. Allora, io poi ho letto anche il contributo dell'Assemblea No Green Pass di Roma, che ha partecipato, sì, no? Sì. E alcune cose che insomma erano interessanti, loro hanno messo a fuoco il discorso della rivendicazione della dimensione politica della cura e questo l'importanza anche di farsi carico, no, della sofferenza, tra virgolette, comunque della crisi. Quindi di un farsi della crisi psichica o comunque esistenziale dei soggetti, cioè l'importanza di creare delle, chiamiamole, comunità di cura, cioè di impegnarsi in questa cosa, perché mai come ora, insomma, dopo questi 2 anni e mezzo appunto di delirio, è importante non delegare, non demandare, non portare neanche acqua al mulino delle istituzioni, no? E cercare invece il più possibile, almeno tra compagni e compagne, tra compagni e compagni, ma anche secondo me in maniera più allargata tra soggetti che in questi 2 anni e mezzo hanno, provando sulla propria pelle, no, che cos'è un TSO, che cos'è un confinamento, che cos'è una emarginazione, eccetera, magari hanno sviluppato anche delle sensibilità in questi termini. Cioè l'importanza quindi di non limitarsi, diciamo, all'analisi, cioè limitarsi, è importante l'analisi, perché altrimenti, però di andare anche, di avere anche uno scatto creativo e anche vitale, insomma, di riprendersi in mano, che non è cosa molto difficile, chiaramente, perché siamo imbrigliati e anche circondati e tutto, però di non abbandonare questo orizzonte della comunità di cura. Sì. Assolutamente, soprattutto diciamo che questo è uno di quegli ambiti pratici in cui i collettivi antipsichiatri si muovono, sì. Cioè riuscire proprio in qualche modo attraverso le relazioni, c'è chi lo fa, diciamo, dei nostri collettivi, c'è chi lo fa tramite sportelli, sì. C'è chi lo fa come noi attraverso un'assemblea che si tiene settimanalmente a Roma, dove si incontrano persone che vivono anche sulla propria pelle appunto la violenza o comunque le pratiche psichiatriche, e attraverso le relazioni si cerca, diciamo, di se non risolvere, affrontare, certo, le cose assieme, ok? Quindi cercare, sì, farsi carico di anche socialmente, cioè quindi uscire dall'individualismo, diciamo, anche assolutamente, no? Anche perché, diciamo, una delle ecco perché diciamo che la psichiatria fa scuola e ha fatto scuola, nel senso, una delle quando, non so come dire, io ho la relazione con una persona che improvvisamente mi si dimostra ben differente da quello che era stato fino all'altro ieri, no? Lo vedo che sta in sofferenza, non lo capisco, non lo comprendo. Io sono la prima ad entrare nel panico. Che cosa succede? Che il più delle volte uno pensa: devo affidarmi a qualcuno che ne capisce molto più di me, no? Quindi all'esperto, un potere medico, eccetera. Sì. Esattamente. Io direi che siccome la psichiatria, insomma, noi mettiamo fortemente in discussione che la psichiatria sia una scienza esatta, non lo è, no? Proprio perché appunto non, anche curandosi di quelle che sono le cause, e tanto più in questi, diciamo, ultimi anni sta prendendo molto forza la psichiatria, quella diciamo quella che attribuisce queste sofferenze ad elementi organici. Sì, okay? Sì. Esattamente, mentre diciamo appunto come dicevamo prima, l'uomo, l'umano è fatto di tanto, no? Sì, è fatto sì di elementi organici, ma è fatto soprattutto diciamo di emozioni, di sentimenti, di relazioni, di tante cose, per cui questo organicismo a noi ci funziona, non ci suona molto, invece in quei momenti, no, è quasi che uno vede. Noi abbiamo, per esempio, ci sono molte persone psichiatriche che dicono: dal momento in cui a me mi hanno detto che la mia diagnosi è la schizofrenia, io mi sento più sereno, no? Perché è come se attribuisce, okay, a una malattia, no? Sì, cioè, uno stato una disfunzione di organica, lo stato di malessere, ok? E quindi la psichiatria su questo, diciamo, ci marcia tantissimo, no? E quindi per noi, diciamo, in questi anni, questa assoluta, come dire, questa credibilità della scienza, pensiamo sia stata anche in qualche modo minata, no? Sì. Da una parte, diciamo, per alcuni si era stato lo Stato e appunto tutti i vari scienziati, tecnici, eccetera, eccetera, dall'altra invece è chissà adesso, no, col tempo probabilmente sarà di nuovo nata, e quindi a quel punto l'unica soluzione può essere quella proprio della consapevolezza del nostro corpo, della consapevolezza delle nostre reazioni, del riuscire a darsi una mano, che è una battaglia che sembra incredibile come possa essere diventata in così pochi anni così difficile da portare avanti, delle pratiche che sono diventate così difficili da portare avanti, perché chiaramente tutto, diciamo, per quello che è l'ordine costituito, queste relazioni non convengono, perché le relazioni significa poi aggregazione, significa poi anche rivolta, eventualmente rivolta, come si dice, il cospirare e respirare assieme. E questo ovviamente in una... diciamo in quelli che sono i piani, evidentemente non va bene, anzi quello che stanno proponendo anche da un punto di vista medico, visto che parlavamo di questo, è proprio la tecnologia, no, sempre più potenziata anche in quel campo, per cui qui a Roma, per esempio, nella regione Lazio sono già stati approntati degli sportelli telematici per il sostegno psicologico, che significa che tu fai un click altro che relazioni. Capite? Capita, lo psicologo, la psicologa di turno a cui tu devi, attraverso un video, raccontare quello che ti sta succedendo. Sì, ma già questa cosa dei bonus per il sostegno psicologico dopo che hai sofferto durante l'isolamento, appunto, del lockdown, no? Questa cosa di pompare su questi contributi, diciamo, per cose psicologiche, e poi in generale, poi per dire anche il discorso della telemedicina rispetto al carcere, tornando lì, anche questo esaltare, con la telemedicina risolveremo, perché così ci sarà pronto la consulenza, no? Se immagino. Il prigioniero la chiederà, Certo, sì, immagino. Sì, annientando appunto tutto quello che è la relazione, che è l'unica invece... Sì, che poi là... si concluderà comunque con un prenditi la tachipirina. O prenditi il Rivotril, che così non rompi le palle esatto. E dormi. Sì. Esatto. E se poi domani non ti collegare più, grazie. Sì, esatto. Ecco, e allora così un'ultima battuta. Certo. C'è anche tutta la dimensione femminista, diciamo, di questo discorso del farsi carico, del prendersi cura, del partire da sé, certo, del non delegare, eccetera, no? Il volantino di indizione, voi avevate anche questo slogan: non vogliono che stiamo bene, vogliono che stiamo buone. Sì, che siamo buone, sì, assolutamente. Che siamo quindi innocue rispetto al... allo status quo, insomma, e al... Assolutamente, sì. E al mondo così com'è. Sì, quello che dicevamo anche della produttività, no? Esatto. Cioè, della produttività, delle lotte, della disgregazione, no? Per cui evidenziamo quali sono i problemi. Comunque parli di femminismo, al presidio hanno partecipato, diciamo, oltre a degli universitari, hanno partecipato delle associazioni, diciamo, abbastanza indipendenti di noi nella chiamata parlavamo proprio che volevamo avere al nostro fianco anche tutti quegli operatori ed operatrici, sì, no? Che comunque, diciamo, si attenessero ai protocolli, no? E alle pratiche, diciamo, quelle neanche suggerite, imposte, no? Perché sì, poi, per esempio, mi viene parlando della contenzione, no? La contenzione meccanica. Sì. La contenzione è una pratica che ha debordato proprio dalla psichiatria, cioè ormai è nell'RSA, è negli ospedali, ma anche negli ospedali, sì, stessi, sì. Ne abbiamo incontrato infermieri che ci dicono: guarda, noi la sera leghiamo perché magari la persona così, se c'ha momenti di smarrimento, prende, sì, se ne... sì. E noi non siamo a sufficienza, no? Per cui questo depauperamento, sì, sì, delle risorse, mm-hmm, sia economiche ma anche proprio di personale, che certo, evidentemente che ha creato il, mm-hmm, è oggettivo e ha creato il dramma di questi due anni, no? Giustifica certe forme, certo, di tortura, e queste sono, certo, forme di tortura. E quindi avevamo fatto un appello per tutti quegli operatori e operatrici che non vogliono, mm-hmm, attestarsi su questo, e sono venuti, hanno fatto interventi anche molto interessanti, raccontando anche appunto il loro serio disagio e le loro difficoltà nel provare, diciamo, altri strumenti, sì, no, che non siano quelli della contenzione. E poi anche l'accordinamento, non so, sì, se sì, l'avete, le compagne, sì, sì, dell'accordinamento, insomma, hanno distribuito un volantino, per cui da, sì, questo punto di vista, diciamo, è stato bello, perché siccome voleva essere un presidio comunicativo, ma forse non abbiamo raggiunto questi che correvano verso i Musei Vaticani, però sicuramente è stato uno di quei presidi dove da tanto tempo non eravamo solo gli antipsichiatrici, certo, ma siamo riusciti, appunto dalla Brigata Basaglia, insomma dagli studenti, siamo riusciti a collegarci ad altre realtà e quindi a confrontarci su dei temi che non sono, perché della psichiatria non sono affatto facili da trattare, perché, mm, diciamo, la psichiatria è uno di quegli argomenti forse più del carcere che, non so, fa paura, che, mm-hmm, per cui non, appunto per quello che dicevamo prima, si cercano poi professionisti nel settore, per cui non è facile parlarne, no, e invece attraverso questo argomento, appunto, come abbiamo visto da questa chiacchiera, si inseriscono una serie di cose che è soprattutto, appunto, le relazioni sono importanti, ed è un modo anche, cioè, più, come dire, più rafforzo le relazioni, più osteggio le politiche, diciamo, di Stato, ecco, esatto, le attuali. Bene, ecco, e boh, mi sembra che abbiamo messo tanto materiale al fuoco. Speriamo. Sì. Boh, sì, se non hai altre cose da aggiungere. Guarda, solo questa, sì, che tu mi accennavi prima, dicevi appunto anche pratiche femministe. Sì. Beh, poi io non l'avevo sentita, però mi dicevano che già dal 2015 che il Cassano, che è un psichiatra, un dannato, diciamo, sì, poco tempo fa avevo letto che assolutamente lui consigliava l'elettroshock alle donne che soffrivano di depressione postparto. Mm. Ecco, e una delle sue adepte è da poco diventata presidente dell'OSS, da poco diventata presidente della Società Italiana di Psichiatria. Aiuto. E, mm-hmm, quindi esattamente io queste cose, brava, io la penso proprio, ok, abbiamo Fontana, sì, abbiamo, sì, la Russa, e sì, adesso, sì, abbiamo, diciamo, adesso, cioè, è proprio un momento in cui il più possibile dobbiamo essere per strada e veramente farci forti, diciamo, sì, delle nostre convinzioni, anche, sì, sostenerci, mm-hmm, e cercare di osteggiare questa ventata terribile che ci sta, insomma, urgendo. È vero. Mm. Bene, quindi anche se vogliono che stiamo buone, noi buone non staremo. No, no, no, no, no, il capitalismo nuoce gravemente alla salute, esatto, mi sembra, lo possiamo dire forte e chiaro. Eh sì, e lo combatteremo in tutti i modi. Ok. Bene, io ti ringrazio. Ci vediamo per strada, allora. Ci vediamo per strada, ci risentiremo prossimamente. Ok, grazie. Dai, ciao. Un abbraccio. A ciao, presto, grazie un abbraccio, a voi. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bene, ci siamo ascoltati adesso questa band della zona di Padova, gli Infranti, che da questa, così ormai possiamo anche definirla, questa reliquia discografica, che era un 7 pollici, uno split 7 pollici uscito nel 1997 grazie a questa etichetta, la Hale Bop Pop. Comunque le due band che hanno partecipato a questo disco erano i Geyser e gli Infranti, e comunque così abbiamo ascoltato, come ho detto, il lato degli Infranti. Ora invece andiamo così, facciamo tutto un salto, torniamo così ai giorni nostri, al 2018, da questo da questo album di questa band statunitense, anzi della zona dell'area californiana. Il loro album è Fight the God Fight, e loro sono gli Interrupters. Sì, torniamo agli interventi parlati, e siamo sempre su Zernis Magnetics, Radio Onde Furlane. Allora, nelle precedenti appuntamenti abbiamo parlato di Vincenzo Vecchi, di questo mandato di estradizione europeo che pende sulla sua testa per i fatti di Genova 2001, quindi le manifestazioni, la manifestazione di Genova contro il G8, e vabbè, abbiamo parlato diffusamente, quindi non mi ripeto. Manderemo adesso un contributo di Radio Cane che un po' racconta la sua vicenda, però in una maniera originale, attraverso un dialogo, diciamo. E volevo ricordare solo questo, che l'11 ottobre la Corte di Cassazione francese doveva pronunciarsi sull'estradizione di Vincenzo. E in realtà questa decisione è stata rimandata al 29 novembre, in quanto gli avvocati di Vincenzo hanno presentato questo difetto di costituzionalità, nel senso che poiché il reato di devastazione e saccheggio non esiste in Francia e appunto Vincenzo verrebbe estradato per essere consegnato all'Italia per accusato di questo reato, che è un reato che è previsto dal codice Rocco, quindi dal codice fascista, e, diciamo che si pone questa questione, anche se poi vabbè, gli stati lavorano per facilitare comunque l'estradizione dei prigionieri politici, ma ci sono comunque, c'è un vizio costituzionale, quindi gli avvocati hanno lavorato su questo aspetto e quindi la decisione è stata rimandata al 29 novembre e forse anche oltre. Va ricordato che nella notte tra il 10 e l'11 di ottobre a Parigi molti attivisti francesi che fanno parte del comitato Soutien Vincenzo hanno manifestato davanti alla Corte di Cassazione, davanti al Consolato Italiano. Ricordiamo che in Francia c'è un movimento di base molto forte che sostiene Vincenzo, e sempre nella notte tra il 10 e l'11 davanti alla scuola Diaz di Genova, simbolo diciamo della violenza poliziesca al G8, è comparso uno striscione a sostegno di Vincenzo, e il 7 ottobre a Genova un gruppo di anarchici ha interrotto una conferenza presso l'Alliance Française implicata in questa conferenza era anche l'Università di Genova, con striscioni, interventi, volantini in solidarietà a Vincenzo e a Claudio Lavazza. Come dire che non c'è stato quindi solo un'attivazione da parte degli avvocati di Vincenzo, ma anche una protesta popolare, e poi ricordiamo, ne abbiamo già parlato, il corteo di Milano dell'8 ottobre. Bene, mandiamo l'audio. Diciamo, ero al primo piano, stavo facendo lavori di pittura, ristrutturazione. Che storia del cazzo! Ma no, perché? Come perché? Come la chiami tu una storia che inizia così? A un certo punto la porta si apre, entra sto tipo, mette la testa nella porta e fa: Vincenzo, se la polizia, sai perché siamo là? Cioè, non so se mi spiego, ci sono agenti ovunque che irrompono nella tua vita quotidiana, la interrompono, che arrivano per impacchettarti, spedirti in carcere in un altro paese, che insomma portano a compimento una storia di bracconaggio giudiziario, di caccia grossa al nemico pubblico di caratura internazionale. Come la chiami una storia così? Questo qua mi spiegava che sono un corpo speciale dedicato a queste operazioni recupero, si chiama Brigata Antifugitiva, hanno sto compito di ricerca e arresto di latitanti e lavorano un po' in tutta Europa in collaborazione tra di loro, quindi mi spiegava un po' questa collaborazione che c'è tra polizie europee in questo caso francese e italiane, coordinate da Interpol. Interpol è quello che finanzia queste operazioni a livello europeo. Hai sentito? Cioè, hai sentito cosa racconta? Cioè, l'ennesima storia di repressione che non finisce mai, o comunque di anni che ti scappano sotto i piedi, sempre in ballo con tribunali, giudici, magistrati, sbarre, cancelli. Cioè, è una storia così. Beh, una storia e il suo senso poi dipendono anche da dove li inizi. Io la storia inizierei a raccontarla da qua, dal salto invece dell'incognito, nell'avventuroso dialogo col possibile che ne consegue, da una vita che corre e la legge che rimane a piedi invece. Quando sono partito c'era comunque sta sensazione di come quando uno parte per un viaggio, nel senso vai parto in vacanza, dai sì, vado non lo so dove vado. Il piacere della vacanza è sempre il viaggio, nel senso che è lo spostarsi, è un po' quando uno prende il treno, no, a una meta, ma quando si sta spostando si fa tutti i suoi viaggi, è piacevole, no? Uno si dice ma sì, magari faccio dei super incontri, magari no. È il lato piacevole dell'incognito, no? La tua storia inizia dall'arresto, ma ricordati che ci sono 8 anni prima, 8 anni di libertà che Vincenzo ha passato lontano, esattamente dai tribunali, dai giudici, dai cancelli, dalle sbarre, tutte queste cose qua. Si sta bene in immersione, si sta bene, perché comunque al di là, non voglio fare la glorificazione di sto stato di clandestinità eccetera eccetera, ma comunque ci sono degli aspetti che sono veramente interessanti. Comunque uno gira senza documenti. Perché dobbiamo avere un documento? Perché siamo identificabili, perché siamo riconducibili a un certo modo di vita, a uno stipendio, a un modo di vita. Che cazzo voglio io? Finalmente cos'è che voglio io? Io voglio vivere libero. Capito? Dipende dallo sguardo che adotti. Puoi guardare la vita che corre, la legge che la insegue. Se ti concentri solo sulla seconda ne verrai pietrificato, vedrai solo i manganelli, la paura, la sfiga, le manette. La tua volontà si farà pesante come un macigno colerà a picco in uno stagno. Se invece riesci a tenere gli occhi addosso alla prima, poi scopri tutto un altro mondo, non solo possibile ma anche già qui, pronto a irrompere per dire la sua, fare qualcosa o almeno provarci. Se uno è ottimista c'è sempre questo slancio verso dai ci provo, non è il mio caso comunque, però c'è sempre questo piacere nel dire ma sì dai, inizio una nuova vita, incrocio altra gente, altri amici, altri compagni eccetera eccetera. Poi è vero, l'hanno preso, ma intanto quegli anni lì, quegli 8 anni se li è vissuti. C'è sta tipa che inizia a farmi delle domande, ma era veramente interessata a sta roba, era veramente curiosa, mi fa ma lei è rimasto 8 anni così e com'è che viveva? Non erano domande tipo ma lei rubava o non rubava, lei era fuori legge, era veramente curiosa. E a sto punto mi fa beh, ma 8 anni lei non aveva una mutua, non aveva una carta di biblioteca, a che uno si dice vabbè ma sta qua è cretino o cosa. E poi al momento del suo arresto comincia tutta un'altra storia, la storia di 300 persone che vanno dentro le aule dei tribunali, non lo lasciano da solo davanti a un giudice, che lo vanno a prendere sotto il carcere. Questa è tutta un'altra storia e è la storia del Comité de Soutien, una storia di solidarietà e un sacco di belle cose. Il venerdì ci siamo riuniti a mezzogiorno e ci siamo detti non è possibile accettare questa cosa, ed è lì che abbiamo deciso di invitare le persone ad unirsi e a formare un comitato. Questo il venerdì sera. Eravamo un gruppetto piccolo, forse una ventina. Il sabato a mezzogiorno eravamo 70, il sabato sera già non ci contavamo più. È successo proprio così, spontaneamente. Non è una solidarietà puramente formale e astratta, ma è una solidarietà concreta, solida appunto nel senso proprio del termine. È fatta anche di una presa di coscienza collettiva, di gioia, sorprese e di presa bene. Gente che trova davanti a degli argomenti che magari non ha mai neanche pensato, no? Il carcere, le manifestazioni, i compagni, eccetera, eccetera. E lì ti trovi davanti un paese che ti accoglie super, sono molto calorosi con te, ti invitano a mangiare, ti dicono ciao, ciao. Erano tutte persone che conoscevano Vincenzo e non si sono poste nessuna questione, ci sono state, punto. E poi bisogna dire che si erano riunite tutte le generazioni, dai più giovani ai più vecchi, insomma si sono riuniti tutti. Con anche le domande dei bambini, ma che cos'è la prigione, cosa gli faranno? I bambini sono rimasti scioccati, anche perché lui era molto complice con loro. Una solidarietà viva quindi, ma anche efficace, mica solo cartoline, striscioni, robe così. Vincenzo l'hanno tirato fuori di galera, tramite qualche spanna di sabbia gettata nella macchina della legge e qualche anomalia negli algoritmi penali europei. Bah oui, on a réussi à mettre juste avant qu'ils arrivent à claquer la porte et Vincent est reparti, voilà, et on ne peut plus rien faire de mettre rapide le pied dans la porte et bon, on a réussi. Come avevamo detto nell'intervista di settembre, siamo riusciti a mettere un piede nella porta, ad evitare che Vincenzo venisse spedito in Italia, e dicevamo che quel piede non l'avremmo tolto mai. E in effetti quel piede non è ancora stato tolto. E in più Vincenzo è con noi, lo vediamo, siamo tutti insieme. C'è la speranza, anzi la convinzione, che questo piede rimanga nella porta. E quando si chiuderà, che Vincenzo non vi sia passato attraverso, ma anzi sia rimasto con noi, da questa parte della porta. Penso che questo sia possibile. Al tempo stesso non è una cosa che cade dal cielo, ma dipende molto dalla solidarietà forte, allargata e internazionale. Di questo sono convinto. E questo indipendentemente dalla situazione di Vincenzo. È una questione di libertà in Europa, minacciata da questo sistema del male. Non abbiamo uno statuto di prigioniero politico in Europa. E attualmente quando vediamo scivolare diversi paesi verso sistemi più duri e rigidi, bisogna essere combattivi, difendere la libertà là dove è minacciata. Donc voilà, il faut être combattif, il faut défendre la liberté là où elle est menacée. Siamo determinati a mantenere questa scarpa nella porta. E potremmo anche decidere di mettercene una seconda. Sì, sì, tutto vero, è bello, è anche un tantino romantico, l'avventura e tutto quanto. Ciò non toglie però che poi 12 anni sono ancora lì che lo aspettano a integrare quel secolo di galera distribuito dopo Genova 2001 tramite il reato di devastazione e saccheggio. Se poi ci aggiungi i pestaggi, le torture, la Diaz, Bolzaneto e tutto il resto, continua a essere una storia del cazzo e forse è da lì che bisognerebbe cominciare a raccontarlo. Quell'orgia di poliziesco comando ha voluto ribadire e mettere il suo marchio al dispotismo congenito al sistema capitalista mondiale. In piena coerenza con la sua logica predatoria, con la sua vocazione alla devastazione, al saccheggio, al sopruso e alla riduzione in schiavitù, ha chiarito che esso non può concedere nulla a quelle lungimiranti richieste democratiche. Liquidarli senza economia di mezzi sarà l'affare comune delle polizie. Sì, perché a ben vedere questa storia comincia proprio lì con quel G8 di Genova, ma ti li ricordi? C'era anche Putin, adesso tutti a sputarle addosso facevano le foto di gruppo insieme, ci dicevano come sarebbe andato il mondo, quale sarebbe stato il nostro futuro, adesso lo vedi qual è il nostro futuro. Dicevano che la guerra sarebbe stata abolita e la guerra non si è mai fermata, siamo stati in Iraq, siamo stati in Afghanistan, adesso siamo in Ucraina, ci dicevano che la fame sarebbe stata abolita ed è diventata oggetto di speculazione internazionale. Cioè la globalizzazione, ma dove ci ha portato la globalizzazione? Che puoi mangiare sushi a Milano e la cotoletta alla milanese a Tokyo, ma che cazzo te ne fai di questa roba qua? A ben vedere, il mondo contro cui Giuliani scagliava un estintore, lo stesso mondo che ci è arrivato dritto in faccia solo qualche mese dopo con l'11 settembre, un mondo fatto di paranoie, di telecamere, di legge antiterrorismo, lo stesso mai il mandato d'arresto con cui adesso Vincenzo rischia di essere rimandato in Italia. Da quale tipo di mondo è stato partorito? È stato partorito da lì, da quei giorni, da quello spartiacque della nostra epoca recente. È da lì che è cominciata questa spirale di merda in cui siamo trascinati da 20 anni oramai. Vabbè, respira. Ti bevi un pastis, anche perché la tua è una storia che è solo un lungo monologo del potere, un atto unico in cui va di scena solo lo Stato. Ancora una volta ti dimentichi l'inizio di questa storia qua. E questa storia, cazzo, comincia con una rivolta. Some people say the 21st century began in Seattle, and it began with a bang. At the end of November 1999, the world came here, came to make rules, came also to protest and disrupt. I hear you knocking. Hold this intersection! For a week, the world watched the flames, the clouds of chemicals, the drama of the battle in Seattle. Are you a human being? You should be ashamed! Una storia che comincia con una rivolta, la rivolta di Genova innanzitutto, che gli ha fatto una paura fottuta, e non pensare che le torture, non pensare che i pestaggi venissero proprio così perché gli piaceva e che gli hai fatto paura, stavano asserragliati là dentro. E queste rivolte non sono mica finite, te le sei dimenticate. E allora ci sono le primavere arabe, c'è la Grecia, arriviamo all'oggi, vogliamo parlare dei gilets jaunes, vogliamo parlare delle rivolte che ci sono state, dove cazzo ne so, perché non me le ricordo. Le auto in fiamme nelle vie genovesi appaiono francamente poca cosa rispetto a quelle divampate nelle banlieue parigine nel 2005. Gli scontri con la polizia in via Tolemaide, poco più di una scaramuccia se posti a confronto con quanto accaduto negli Stati Uniti durante la Floyd Rebellion nel 2020, o a Hong Kong, a Santiago del Cile, Ecuador, Colombia, Tunisi, il Cairo, Tirana, Parigi. Se il tempo di ora è il tempo delle rivolte, la componente rivoltosa che Genova ha saputo trasformare una farsa annunciata in una sommossa reale, si iscrive quindi a pieno titolo, piaccia o meno, nelle tendenze fondamentali di questo tempo. Ma ascolti Radio Cane, te li ricordi i contributi? Cioè c'è pure la Floyd Rebellion. E quindi? E quindi boh un cazzo, tocca ricominciare dalle basi. In piazza cominciano ad arrivare gli operai, i lavoranti, i come dicono loro. Tutta questa gente arrivata in piazza a un certo punto si accorge di essere maggioranza. La marea degli operai comincia a sciamare per tutta la città e cominciano a dare l'assalto alle case dei traditori. E chi sono i traditori? Sono quei popolani grassi che sono diventati troppo grassi, dei grossi proprietari di industrie, di aziende, dei giudici, dei giuristi, che sono stufi di questo governo largo. La gente lo sa, li conoscono per nome, Messer Lapo da Castiglionchio, giudice. Andiamo a bruciargli la casa. Il furore dilaga in città. Andiamo a bruciargli la casa degli strozzi, dei pazzi, i cittadini grossi. Andiamo a bruciargli la casa. Tutte famiglie, sì, di popolo in teoria, ma in realtà traditori. Il furore dilaga in città. Dove si va? Alle stinche, alla prigione. Si rompe la prigione e si liberano i carcerati. Andiamo a bruciargli la casa. Che vuol dire chiaramente, secondo noi il governo è corrotto e traditore, la giustizia è traditrice. Andiamo a bruciargli la casa. Ci dà l'assalto ai conventi, dai francescani a Santa Croce, dai domenicani a Santa Maria Novella, perché se succede il tumulto, i conventi magari verranno risparmiati. Stavolta non vengono risparmiati. Allora, che ne pensi? Com'è andato il corteo ieri? Ma bello, è stato un bel corteo, mi è piaciuto. Beh, insomma, gli sbirri un po' nervosetti, qualche commerciante esagitato. Beh, però alla fine il corteo ha tenuto, c'era tanta gente e siamo arrivati fino sotto San Vittore. Ma sì, non so se un corteo poi cambierà le sorti per Vincenzo in Francia. No, ma l'importante è che eravamo insieme e piuttosto che stare a casa da soli sul divano ad aspettare la sentenza, siamo stati insieme e ci siamo presi le strade. Business, not personal. another court session. No rat in the room, so there's no confession. Omerta is the law and the most respected. If I get the job done, you'll be protected. It's business, not personal. It's business. Bene, bene, un saluto anche da parte mia per questa puntata di Zardins Magnetics, dove volevo così brevemente aggiungermi agli interventi e fra parentesi volevo anche dire che stiamo facendo concorrenza a Barbero, che mi sembra che stasera c'è qualcosa su Rai Storia. Comunque, chiusa parentesi, un intervento seriamente sull'appello che hanno fatto i difensori di alcuni compagni, difensori legali, e che sta cominciando a girare da qualche giorno, adesso non mi ricordo bene da quando, dove appunto si mette a fuoco la situazione degli ultimi, dal 2020 in poi, specificamente, più diciamo con precisione, e ovvero l'accanimento da parte dell'apparato giudiziario repressivo nei confronti delle appunto di compagni anarchiche. Si fanno diversi esempi adesso, che si va appunto da i soliti compagni di cui abbiamo già parlato, ovvero Juan Sorroque, Anna Beniamino, Alfredo Cospito. Poi si nominano anche le inchieste, le inchieste più recenti, sia che riguardano gli anarchici a Torino, sia a Bologna, a Firenze, anche in Trentino, e dove appunto c'è un'applicazione diffusa dei reati, diciamo, per sì, reati, si utilizzano imputazioni per reati associativi, o sì, di frequente viene utilizzato appunto il reato di istigazione per appunto in realtà manifestazioni di opinione, e si va alla conclusione insomma, che adesso magari vi riassumo o leggo. Per cui appunto c'è una narrazione mediatica costruita non su interventi e esternazioni di magistrati così di periferia, ma dichiarazioni qualificate del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che è una persona che dirige tutti i distretti del paese, i distretti, le procure distrettuali antiterrorismo di tutto il paese, dove appunto in queste dichiarazioni gli anarchici sono responsabili istigatori delle rivolte del carcere nel mese di marzo 2020. Tutto questo ha una risonanza mediatica che poi viene smentita, ultimamente smentita, ovviamente questa risonanza alla smentita non viene data. Più in generale, in epoca recente è stata attribuita una pericolosità sociale e inserita questa cosa nelle relazioni semestrali dei servizi segreti, ma questa è una consuetudine. E quindi concludono questi difensori, questi legali difensori dei compagni: è lecito domandarsi cosa stia avvenendo in questo paese e se gli anarchici rappresentino effettivamente un pericolo per l'incolumità pubblica, meritevole di essere affrontato in termini muscolari, talvolta spregiudicati, oppure se in coerenza col passato rappresentino gli apripista per una ristrutturazione e oppure un rafforzamento in chiave autoritaria degli spazi di agibilità politica e democratica nel paese. Cioè, vengono queste cose anche nel piccolo, poi dalle nostre parti, ad esempio in capoluoghi come Trieste e Udine, c'è ancora una direttiva del prefetto che impedisce, mette divieto su qualsiasi tipo di manifestazione così in maniera arbitraria su certe aree della, della città. Sì, tutto in seguito appunto a questo, diciamo adesso per esula dal discorso degli anarchici, ma per sulle mobilitazioni, no? Più anche popolari. Chi scrive, continua il comunicato e l'appello, chi scrive svolge la professione di avvocato ed è direttamente impegnato nella difesa di numerosi anarchici in altrettante vicende penali ed è così che riscontra la sempre più diffusa e disinvolta sottrazione delle garanzie processuali a questa tipologia di imputati, in primo luogo in tema di valutazione delle prove in ordine alla riconducibilità soggettiva dei fatti contestati, oppure di abbandono del diritto penale del fatto a vantaggio del diritto penale del tipo d'autore, realizzato attraverso l'esaltazione della pericolosità dell'ideologia a cui il reo appartiene. Siamo consapevoli che la genesi di un possibile diritto penale del nemico si radica nella storia recente di questo paese, nel contrasto giudiziario alle organizzazioni combattenti nel corso dei processi degli anni 70-80 e che poi le continue emergenze hanno permesso di condividere e estendere ad altre categorie di imputati l'atteggiamento giudiziario tenuto fin l'altro giorno, atteggiamento che oggi viene riproposto verso gli anarchici. Rei soprattutto di manifestare un'alterità irriducibile all'ordine costituito. Ci troviamo come avvocati a essere avvocate a essere spettatori in una deriva giustizialista che diciamo rischia di contrapporre, questa è una parte importante secondo me, poi concludo, contrapporre un modello di legalità penale indirizzato ai cittadini con le garanzie e i diritti tipici degli stati democratici, contrapposto appunto a uno, a un altro tipo di modello riservato ai soggetti ritenuti pericolosi, destinatari di provvedimenti e misure rigidissimi, nonché di circuiti di differenziazione penitenziaria. E quindi diciamo tutto ciò ci preoccupa perché comporta un progressivo allontanamento dai principi del garantismo. Boh, queste sono appunto le posizioni dei, sì, di questi che sono professionisti legali eccetera, non c'entrano neanche con quello che portiamo avanti sulla trasmissione, appunto da quello della legalità a quello di offensività sino un pericoloso slittamento verso funzioni meramente preventive neutralizzatrici degli strumenti sanzionatori come gli esempi sopra richiamati dimostrano. E poi ci sono le firme Flavio Rossi Albertini, Vitale Calia, Gianluca Vitale, Caterina Calia eccetera, Claudio Novaro e altri, insomma trovate in rete. Io ho concluso, lascio la parola ancora a qualche altra, beh lascio insomma al prossimo intervento e un saluto e a risentirci. Ecco, siamo quasi alla fine e così volevamo finire con una notizia. Alfredo Cospito, compagno anarchico in sciopero, compagno anarchico al 41 bis dal 5 maggio, da oggi 20 ottobre è in sciopero della fame. ha praticamente attraverso una dichiarazione in videoconferenza ha dichiarato questo sciopero della fame in occasione di un'udienza presso il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, udienza relativa al sequestro della corrispondenza. E appunto Alfredo ha iniziato questo sciopero della fame contro la sua detenzione nel carcere speciale di Bancali sotto il regime di 41 bis. E chiaramente tutto l'appoggio e la solidarietà, daremo gli aggiornamenti, insomma la situazione è in aggiornamento. E niente, per stasera così, e ci sentiamo alla prossima. Ciao. He will spread pestilence and contaminate the world. They will make cemeteries their cathedrals and tombs your cities. Bene, sfumiamo un po' questa band, è una band slovena, esattamente dell'area di Lubiana. Comunque loro erano gli Anaeroba, da questo loro album datato 2010 che si intitolava Over the Walls and Borders. Unica loro uscita discografica per questa band, anzi è stata recuperata da un loro CD ROM che era uscito completamente autoprodotto, e poi è uscita questa versione in vinile a livello europeo. Comunque ho anche sfumato, perché siamo proprio giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che ripeto va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine. Quindi anche come consuetudine diamo i nostri contatti, che sono per la posta elettronica dovete scrivere a liberetutti@autistica.org. se poi invece volete scriverci in forma cartacea, dovete intestare alla casella postale 129, Associazione Senza Sbarre, Trieste Centro 34121. Ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121. Inoltre questa puntata, ma anche tutte le scorse edizioni, potete andare nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, siamo proprio anzi abbiamo anche sforato il nostro tempo. Ciao a tutti, vi lascio con un ultimo brano appunto degli Anaeroba. Ciao a tutti.